prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Lo spazio di questa settimana insieme alla Caritas allarga lo sguardo oltre i confini nazionali, segnalando la situazione dello Sri Lanka, dove nelle ultime settimane c'è stata una serie di alluvioni, è salito il numero delle vittime, sono aumentati anche i danni, alluvioni, smottamenti dopo le pesanti piogge monsoniche che cadono in diverse località. 420.000 e più le persone colpite in 22 distretti da nord a sud del paese, più di 130 dispersi e decine di morti accertati. Ovviamente per le abitazioni danni ingenti, centinaia di edifici sono crollati, migliaia parzialmente danneggiati, centinaia le scuole chiuse per gli allagamenti, pesanti i danni all'economia. La Caritas del paese asiatico, lo Sri Lanka, si è prontamente attivata per predisporre un'assistenza alle persone sfollate in coordinamento con le autorità locali. Distribuiti aiuti già a circa 7.000 persone, lo scopo è di raggiungerne 27.000 in totale. Si tratta come aiuti di kit di cibo secco, liofilizzato, beni non alimentari come materassi, coperte, lenzuola e per materiale per l'igiene personale. L'appello è alle Caritas di tutto il mondo per un sostegno economico al piano di risposta all'emergenza, e anche Caritas italiana in costante contatto con la Caritas dello Sri Lanka ed è pronta a sostenere gli interventi in corso grazie alle offerte che già si stanno raccogliendo. Alluvioni in Sri Lanka, ma il rischio sempre più globale e il rischio opposto è quello delle siccità, una severa siccità quella che dall'inizio del 2015 ha colpito in particolare il Centro America, i Caraibi, il Corno d'Africa. Pensiamo alla situazione, se ne sta parlando molto, del Venezuela, dove è razionata l'energia elettrica, dove il paese praticamente si è bloccato a causa anche della crisi, dell'abbassamento del prezzo del petrolio, che è la principale fonte di approvvigionamento per i venezuelani. Non c'è più energia elettrica, i supermercati e i negozi di fatto sono vuoti e non c'è più letteralmente cibo per la popolazione, ma anche i paesi più poveri appunto sono colpiti dalle siccità. Secondo la FAO quest'anno saranno circa 60 milioni, cioè come tutta la popolazione italiana, le persone che subiranno le conseguenze delle varie siccità. È una conseguenza del fenomeno atmosferico chiamato El Niño, si verifica in media ogni 5 anni, c'è una variazione delle correnti dell'oceano che provocano proprio gravi siccità e improvvise inondazioni, ne abbiamo parlato poco fa per lo Sri Lanka. Nel 2015 nell'area del Corno d'Africa fino al Sudan la prima e la seconda stagione delle piogge, cioè il periodo febbraio-maggio e poi d'estate, hanno registrato precipitazioni molto sotto la media, insufficienti a rifornire i punti d'acqua e a rigenerare i pascoli. Dall'ottobre scorso a settembre di quest'anno le previsioni prevedono appunto che le persone bisognose di assistenza umanitaria, specialmente alimentare, aumenteranno del 30% rispetto all'anno scorso. In quest'area ci sono 15 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza alimentare, soprattutto i bambini sotto i 5 anni, e in metà dei paesi colpiti. L'impatto di El Niño sul clima è la principale causa di severa insicurezza alimentare. Citiamo l'Etiopia, dove in alcune aree sono quasi totalmente esaurite le fonti d'acqua, i pascoli sono aridi e ci sono forti perdite di capi di bestiame. Il picco della crisi sarà raggiunto tra i prossimi mesi di luglio e agosto, che solitamente è periodo di magra, ma ovviamente con la scarsità d'acqua non si potranno effettuare raccolte almeno per un'altra stagione. La crisi è causata anche dall'aumento dei prezzi del cibo. La popolazione è già vulnerabile anche per le politiche di sviluppo spesso non favorevoli ai piccoli produttori. È una situazione molto drammatica di cui non si parla molto, appunto il problema della siccità che sta colpendo sempre più persone, e appunto anche il problema delle alluvioni, quelle magari sono più evidenti perché causano degli impatti diretti. La siccità causa dei danni a lungo periodo, ma probabilmente è molto più pericolosa. Avete ascoltato? Prossimo tuo. Rubrica in collaborazione con la Caritas.